La gente non sa più ammettere i propri sbagli. Sono come cicatrici, sono come tagli. Dettagli su dettagli, alla fine me ne andrò via, portandomi appresso i loro bagagli. Spensierato fino ai 20 anni, fino a non morire con in mano una croce. L'unico ricordo mio per voi sarà la mia voce, sfiga di una morte prematura. Ora sono seppellito e sono in pace in mezzo alla natura. Nella mia scrittura, nei miei testi, nei miei pensieri immersi, senza una direzione, persi, lasciando tutti perplessi nel loro vuoto incolmabile. Sembra niente, e come sembra non tutto, e come sembra bruciami le mie membra. E nessuno sa prendere una decisione, la gente non prende mai posizione. Sfamare a fine mese tutta una nazione, preciso, impassibile come un cecchino accecato dal sole di primo mattino. Come Gesù il mio sangue è vino. Certe persone sono duri come un paraurti, urti della vita. Possono danneggiare, ma ti fanno pensare cosa è meglio fare. Se alzarsi su o lasciarsi andare fra le onde gelide di questo mare. Io se fossi in te non lascerei scappare l'opportunità. Ricorda che Dio lassù ti assisterà. Non tutto è come sembra niente, è come sembra non tutto, è come sembra bruciami le mie membra. E vedo le mie iniziali conficcate nel legno. Ho pensato che questo è un segno, le mie pronte cancellate come in un disegno. Chi mi parlerà alle spalle sarà il mio bersaglio come un tirassegno. Ormai la vita umana è lasciata come un pegno, senza valore non sento più calore, nessuna emozione, perché ogni menzione porta male. Ormai mi rassegno alle mie sorte, risuonerò anche dopo la mia morte grazie al sostegno di certe persone. Questa realtà non è finzione. E sembra niente, e come sembra non tutto, e come sembra bruciami le mie membra. Non tutto, e come sembra niente, e come sembra non tutto, e come sembra bruciami. G16, Street Life Production, non tutto è come sembra.